Good evening, ladies and gentlemen. Start now having a clandestino cheat. Si ritorna qui sul ponte dell'università stasera perché fa veramente caldo. Clandestino Cid, la sesta puntata con nuovi ospiti. Stasera direttamente dalla Polonia abbiamo Isabella. Ok, e poi abbiamo anche Laura che è venuta a trovare. Ciao. E naturalmente, vabbè, Tarlo direttamente da Roma. Sì, questa sera non sono l'inviato da Roma, ma sono venuto direttamente in studio, vabbè. Studio, se si può chiamare così. Siamo all'aperto, dai, questo live di clandestino sotto le stelle, sì, dai. Questa ondata di romanticismo. Tarlo, grazie. Abbiamo anche Gonzalo. Buonasera a tutti. Abbiamo anche Giovanni. Voilà. Mare, come ti auguro, Mare. E ci sono anche io, Peppone, in regia. Siamo nello studio, Tarlo, veramente. Il nostro studio è al cielo aperto perché siamo clandestini, quindi il nostro studio è il mondo. E andiamo con il primo pezzo. Il primo pezzo è di Battiato, L'era del cinghiale bianco. Eccolo qua. Thank you. tieni gli alberghi a Tunisi per le vacanze estive, a volte un temporale non ci faceva uscire. Un uomo di una certa età mi offriva spesso sigarette turche, ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Profumi indescrivibili nell'aria della sera, studenti di Damasco vestiti tutti uguali, l'ombra della mia identità mentre sedevo al cinema oppure in un bar. Ma spero che ritorni presto l'era. Siamo ritornati in studio qui sotto le stelle, sotto una bellissima serata, con il nostro amico Giovanni che ha trovato un pacco di sigarette di tabacco polacco perché era biondo. Quindi, dato che stasera abbiamo due polacche in studio, abbiamo Isabella e il tabacco. Volevo passare la parola a Ciccio perché lui deve iniziare lui, no? È così. La regola dice questo. No, non è vero. La regola dell'amico, bene, bene. Certo, certo. Allora, noi, non lo so, andiamo subito, vabbè, partiamo con una piccola, no, intervista, però discussione così amichevole su cosa sta succedendo adesso in Polonia, dato, magari partiamo così, dopo ci direi qualcosa di più approfondito sulla tua terra. Per adesso partiamo per allietare i nostri ascoltatori sugli europei, dai, parlaci un po' di cosa sta succedendo in Polonia. Anche in questo, sì, quello che è successo nella partita Polonia-Russia, primi tifosi condannati. Aspetta, sei tranquilla. Ok, ora, ok, forse qualcosa per calcio, sì? Sì, calcio è molto importante, sì, in Italia è molto molto importante, anche in Polonia, sì. Ma Polonia, no, vinci, ultima partita. E tutti a Polonia molto triste, anche io. Sì. Vabbè, Isabel, però triste, però c'è una grande festa adesso nella tua terra, no? Sì, sì, grandissima festa. Ma ora io bocca al lupo per Italia, sì? Ok, spero che Italia vince. Ok. Va benissimo, va benissimo. Peppe, è data un po' dell'emozione che ci sta tutta della nostra ascoltatrice, direi di passare il primo pezzo che ha portato lei e ce lo presenta, ci presenta il primo pezzo che hai portato. Ok, prima canzone questa, Nie ma to jak być na dobrej bibie, questa è nome, questa canzone, è molto popolare canzone in Polonia. Mi piace molto perché bene festa. Tutti dobbiamo va a bene festa, è molto divertito. Sì, buon ascolto. To jak być znów na dobrej bibie, na dobrej bibie, na dobrej bibie, jej. Do rana bawimy się, więc ręce w górę, ręce w górę, ręce w górę, jej. Nie ma to jak być znów na dobrej bibie, na dobrej bibie, na dobrej bibie, jej. Do rana bawimy się, więc ręce w górę, ręce w górę, ręce w górę, jej. matto jak być znów na dobrej bibie. Gdzie masę ludu nastawione są pozytywnie. Swój ból i strach dawno zostawili przed klubem. Teraz siedzą, piją alko i palą jointy grube. To lubię, kiedy selekta gra tunych pytę. I widzę rozbujaną publikę MCs, którzy mają unikalną technikę. Oryginalne flow, tworząc z publiką jedną rodzinę. Ludzi tłum w jednym lokalu, przygotowani na wielkie boom. Zebrali się tu, by człowieku za chwilę wprawić w ruch machinę i do rana bawić się, nie patrząc na godzinę. Wiedz jedno, nie tylko ty, jutro masz wolne i inni idą do roboty. A piją, palą jointy i nie myślą o tym. Dlatego wielki big up za to, że mają w sobie tyle mocy. Nie ma to jak być znów na dobrej bibie. Na dobrej bibie, na dobrej bibie, ej. Do rana bawimy się, więc ręce w górę. Ręce w górę, ręce w górę, ej. Nie ma to jak być znów na dobrej bibie. Na dobrej bibie, na dobrej bibie, ej. Do rana bawimy się, więc ręce w górę. Ręce w górę, ręce w górę, ej. Co wiem, to to, że nie mógłbym żyć samotnie. I wyłączą ludzi niewiarygodnie. Bez tego życie byłoby okropne. Dlatego kocham tą branżę. Niby koncerty ostre melanże. Tak poznali się klub z LSM. Trzoba krusiła spokoju Max do FWR. Super grupa kona vibe sam system. O ziombel, mogę tak wymieniać ciągle. Ale nie zdążę, bo jadę zaraz pociągiem. Na kolejną środę, tym razem nie samochodem. Dziś mamy sobotę i nie zważając na pogodę. Pędzę na vibe, żeby przekazać ludziom ogień. Oto jestem i jeszcze raz wam to powiem. Ludzie, ej, ej. Oj, zróbmy rozpiździel w tej budzie, bo nie ma to jak być znów na dobrej bibie. Na dobrej bibie, na dobrej bibie, ej. Do rana bawimy się, więc ręce w górę. Ręce w górę, ręce w górę, ej. Nie ma to jak być znów na dobrej bibie. Na dobrej bibie, na dobrej bibie, ej. Do rana bawimy się, więc ręce w górę. Ręce w górę, ręce w górę, ej. Nie ma to jak być znów na dobrej bibie. Na dobrej bibie, na dobrej bibie, ej. Bawimy się, więc ręce w górę. Ręce w górę, ręce w górę, bo nie ma to jak być znów na dobrej bibie. Na dobrej bibie, na dobrej bibie, ej. Do rana bawimy się, więc ręce w górę. Ręce w górę, ręce w górę, bo Si ritorna in studio con un pezzo fantastico che appunto, come diceva Isabel, parla delle belle feste, alzare le mani al cielo per le belle feste, giusto Isabel? Sì, giusto. Ok, adesso passiamo al momento clou della nostra radio, all'intervista al nostro ospite, al nostro clandestino. Isabel, tu allora, da dove vieni innanzitutto? Io sono polacca, abito e studio a Cracovia. Ok, e cosa studi? Qui studi solo filosofia, ma in Polonia studi filosofia e giurisprudenza. Benissimo. La prima volta che vieni qua in Italia? No, questa non è la mia prima volta. Quando sono piccola sono andata qui, ma non qui, andata a Toscana. Toscana è bella. Ma ti piace più la Calabria o la Toscana? Certo, Calabria. Meno male, meno male. Ma la tua prima impressione quando sei arrivata qua in Calabria, qual è stata? Anzi, tu hai scelto proprio... la tua prima scelta è stata la Calabria oppure volevi scegliere un'altra università dove andare a studiare? Calabria, certo, certo, Calabria, sicuro. Ok, e la tua prima impressione qual è stata quando sei arrivata in Calabria? Fa caldo, molto caldo qui. Perché in Polonia è più freddo. Persone, tutti sono bravi, sì, persone è molto gentili, sì. Io abito con tre migliori, sì, migliore conculino, sì, ragazze. Ok, ok. E quindi studi filosofia, Isabel? Sì, quindi, sì, io studio filosofia. È molto, piace filosofia, ma sì. Sì, ok, più piace giurisprudenza perché è più interessante per me. Quindi comunque invitiamo tutti i nostri ascoltatori, se volessero comunque fare una domanda anche sulla filosofia, non lo so, in generale. Sei pronta a rispondere, sì? Certo, certo. Aspetto per domande, tutte domande. Ok, ok. Niente, Isabel, comunque, a proposito della cosa che dicevi tu, che tutti sono bravi, tutti sono bravi, io volevo leggere una notizia che ci è arrivata il 17 giugno, una notizia d'Ansa, poi la discuteremo anche con il nostro macchinista ferroviere Peppe. Precamente, notizia d'Ansa, violenza sessuale, studentessa aggredita in campus Ateneo, a Cosenza giovane amica lo fanno fuggire, indagini carabinieri. Precamente, cosa è successo? Una studentessa spagnola di 22 anni è stata aggredita nel campus dell'Università della Calabria da un giovane che voleva violentarla. La ragazza, 17 sera, dopo aver seguito la lezione, stava tornando nell'alloggio insieme all'amica quando un giovane ha cominciato a palpeggiarla. Comunque l'amica ha colpito l'aggressore, che ha mollato la presa per poi tornare all'attacco. Quindi Peppe, non lo so se la notizia è successa sul ponte, oppure non lo so se abbiamo un luogo preciso dove collocare l'evento. Tu sai qualcosa? No, io non so nulla dove è successo. Sapevo del fatto, ma non sapevo dove è successo. Comunque, se è successo sul ponte, la cosa fa molto sorridere. Dico, la situazione è che ci sono milioni di telecamere inutili sul ponte, no? Abbiamo tutto questo grande fratello che ci guarda dall'alto, ma una volta è successo che una ragazza è stata filmata in un bagno, una nostra amica, siamo andati a fare la denuncia ai carabinieri, però dice che non potevano fare nulla ai carabinieri perché nei cubi non c'erano le telecamere, quindi... L'assurdità è che sul ponte dove non c'è niente, c'è ferro, mettono la telecamera dentro i cubi dove può succedere l'ira di Dio, in teoria non c'è niente, quindi c'è la terra di nessuno. E questo fatto è molto grave perché una ragazza in estate è normale che si veste in maniera meno vestita. Anche io esco nei pantaloncini, ma non è che se esco nei pantaloncini uno prendermi violento. Lo so che ci abbatto pure, faccio un po' schifo, lo so, però non è... Non è normale che tu vedi una bella ragazza e la tenti di acchiapparla al volo, ma invece vai là e casomai ti presenti, la cerchi di conoscere. Poi, non lo so, è una persona squallida questo qua che ha fatto questo gesto. Gente è merda. So, viene da dire questo. Tu cosa ne pensi, Sabrina? Io non lo so prima, mi dispiace molto, sì, non lo so prima, io abito in questa pericolosa place, posto, sì, ora io ho paura, molto, molto, molto. Beh, dai, intervengo io, diciamo che comunque paura non bisogna averne, perché bisogna continuare a vivere la propria vita tranquillamente, senza spaventarsi troppo. Che ne pensi, Giusto? Sì, vabbè, spaventato o non spaventato, penso che le cose succedano da tutte le parti, giusto, Isabel? Magari anche, vabbè, le ragazze, purtroppo, dico purtroppo perché comunque continua sta manipolazione maschile, in un certo senso, che andiamo ad aggredire la ragazza come il branco, no? Un po' una visione animale, però ci sono anche delle malattie che portano tutto questo, oltre che comunque alla voglia di fare lo stronzo, andare in giro a far del male alla gente. Peppe, io direi di passare un altro pezzo e ci risentiamo tra poco. Sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing supersonic man out of you. Stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time. E si ritorna sotto le stelle questa sera, fuori onda radio, punto attervista, punto org. Ok, ricordiamo a tutti che è possibile interagire con Clandestino Cid dal portale Facebook, Clandestino Cid, oppure semplicemente mandando quelle famose mail che Peppe legge settimanalmente, giornalmente. clandestinocid@gmail.com clandestino.cid@gmail.com. Ok, adesso ritorniamo alla nostra intervista con la nostra ospite, amante della musica, che piace tanto la musica. E niente, parlaci un po' di Cracovia, come si vive a Cracovia? Ok, Cracovia è bella città, sì. Io voglio invitare tutti gli italiani a Cracovia, perché a Cracovia ci sono tanti posti di divertiti, tanti disco, tanti posti di, okay, per divertità. E cosa? È tempo non simile di Calabria, ma anche bello. È più più freddo. No, tutto è bello. Cosa? Forse Laura parli qualcosa, perché Laura voglio molto va a Polonia. Ok, Laura vergogna molto. Ok. Isabel è tipo, solitamente non lo so. Io sono stato in Polonia, no? E c'è la vita che mi piace, la vita da pub proprio. Il pub che arrivi, c'è il gruppo che suona, no? Cioè, cose che succedono a Cracovia, giusto? Sì, tanti questi posti. C'è un nostro amico che va Ostrava, che è Repubblica Ceca, eh? Sì, Ostrava è Repubblica Ceca, sì. Ma Repubblica Ceca è vicino a Polonia. Invitiamo a Cracovia. Sì, a Polonia. Dimmi una cosa, Isabel. Tipo, sentiamo sempre parlare della cosiddetta crisi, la crisi mondiale del lavoro e di tutti i settori che accomunano questa grandissima parola. In Polonia, tipo, nella tua città, dove vivi tu, com'è la situazione a livello di crisi? Io penso no, in Polonia non c'è crisi. Polonia no, non c'è. Noi abbiamo tanti lavoro, tutto va bene. Non c'è crisi, sicuro non c'è crisi. Benissimo, allora invitiamo tutti ad andare a vivere in Polonia. Sì. Perfetto, no, perché io tipo leggevo adesso una notizia tipo Padova sciocca, artigiani in crisi, offro un rene per 30.000 euro, cioè si vende un rene per ricevere 30.000 euro, sì, ce n'è. Che brutto. Allora, c'è una nostra amica che ci sta seguendo dalla Polonia, Barbara, che l'anno scorso ha fatto l'Erasmus qua, la salutiamo, vuoi salutarla in polacco? Cześć Basiu, pozdrawiamy Cię bardzo serdecznie. Ok, allora non lo so, che facciamo? Mettiamo un pezzo? Vai Peppone, dai. Non so il titolo, che cosa ci metti? Te la parola. Questo pezzo lo volevo dedicare ad Antonietta, la nostra più fedele ascoltatrice. È di Jimmy Cliff. You must try. succeed at last. Yeah. Persecution you must fear. Win and lose, you've got to get your share. Got your mind set on a dream. Succeed at last. I know it. Listen. Rome was not built in a day. Opposition will come your way. But the hotter the battle you see, it's the sweeter the victory. Succeed at last. You can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want. But you must try, try and try. Succeed at last. Si ritorna in studio, clandestino Cid, questa sera con la nostra special guest from Poland. Ok, adesso trattiamo comunque un tema del Vaticano, della Vaticano City. Dato che le vaticanate, sì, una vaticanata, dato che comunque in questi giorni, Isabel, sul web sono uscite tantissime foto del cosiddetto Papa polacco. Sì, Papa Wojtyłaty. Wojtyła, perché ok, però a proposito di questo andiamo a leggere questa notizia. Buone uscite ai preti pedofili, così la Chiesa punisce gli abusi. Precamente, per i preti che hanno commesso atti quali pedofilia e stupri e varie cose per le cosiddette indulgenze, le buone indulgenze, precamente la Chiesa cosa fa? Gli rilascia una pensione da 1250 dollari al mese e l'assicurazione sanitaria fino a quando non avranno trovato un altro lavoro. Hai capito? Quindi arriva a essere stuprata da un prete oppure da qualcun altro appartenente alle vaticanate, cioè praticamente, capito, sei ripagato. Sei ripagato con 1200 dollari al mese. Peppe, noi non è che vogliamo sempre puntare il dito verso chi comunque svolge il proprio lavoro con riservatezza e quant'altro, ma cioè, scene di panico. Isabel, tu al riguardo cosa vorresti dire? Non lo so, anche un messaggio, vorresti lanciare un messaggio al Vaticano, ci sente qualcuno? No, io prima volta sento questo, ma io non molto interessante per Chiesa questa tutto, perché io non mi piace Chiesa preti, sì, perché per me non è buono, sì. E perché non è buono? Perché? Perché io credo, ma non credo in questo Dio in chiesa, sì. Io credo in absolute, sì. Absoluta, sì. E io credo, c'è qualcosa, ma non lo so cosa, sì. E non mi piace quando un ragazzo, uomo, si parli e tu devo fare questo, non fa questo. Ok, questa è mia vita e io fa cosa io voglio. Tu praticamente la vita è mia e me la gestisco io. Wow, che voce languida, Tarlo. Potresti entrare nella Vatican Day, tu, nelle Vaticanate. Ma anche no. Quindi, Isabel, non ti piace proprio anche lo Stato, inteso come Chiesa, perché è uno Stato, giusto? Sì, giusto. Quindi, a riguardo di questi preti che commettono stati e vengono ripagati, cosa dici? Cioè, puoi usare anche un linguaggio abbastanza non volgare, però aggressivo. Io penso questa è brutta situazione, poi esiste, non è giusto, sì. Va benissimo, passiamo all'altro pezzo. Peppe, tu vorrevi dire qualcosa, dai, non ti esprimi, perché Peppe? Ero distratto, stavo parlando con i nostri ascoltatori qui dalla Polonia, con Barbara, che saluto, con Natale, che è grande bluesman. E volevo mandare un pezzo di... Mandiamo il pezzo polacco. Come si chiama? No, bo ty się boisz myszy. Questa è canzone di ragazzi che in teoria è molto forte, ma in pratica paura di mouse, di questo piccolo topi. Sì, mouse. È dedicato sì, per tutti i ragazzi, tutti, special per ragazzi italiani e polacchi. Wszystkie popeliny, na wszystkie farmazony i królewskie nowiny. Doszły mnie słuchy, że nie czuję skruchy. Po tym jak zjebałem brata dla kapuchy. Później też słyszałem, że w mafii działałem. Dzikami, autami i koksem handlowałem. Coś tam też mnie doszło, że jeden z nas nie żyje. Że z tego wszystkiego rzucił pętlę na szyję. Słyszałem też kiedyś, że mój brat rodzony rozjebał się w kryminale, byłem zaskoczony. Zdenerwowałbym się, gdybym miał brata. Na szczęście moja mama chciała jedynaka. No i te dzieciaki co na necie robią fuchę. Chłopcy co wy o nas wiecie, skoro mama swynia wam pieluchę. Chwalił się kolegą, że pocisnął i jest super. Bo tata właśnie dzisiaj zniósł karę na komputer. A wiesz to jest gorszy, tej kto łyka i przetwarza. Zmutowane gówno daje innych nim zaraża. Zabrałbym się za was, bo jest tego całkiem sporo. Ale powiedz po co mam to robić, skoro ty się boisz myszy. Czy nie śmieszne to? Śmieszne to. Ale ty się boisz myszy. Mało kto ty się bardzo boisz myszy. Nie wie o tym nic. O tym, że się boisz myszy. Bo to taki wstyd. Taki wstyd. Opowiem tu historię o takim śmiesznym kimś. Co jak zobaczy mysz, to ucieka w mikrofon. Tuż mi drogą i spierdala, za kąpę taka faja. Udaje kozaka, ludziom dupę obrabia. Potem przychodzi na koncert i tam buja się w najlepsze. Co kawałek jedzie słowo w słowo z twoim tekstem. Po koncercie przyjdzie chłopaki piątka za koncert. Bo też odzie za kąpem i rozpocznie wątek. Bezmieni, beznadziejni, bezrobotni i bezdomni. Jeszcze o naszym prostym stylu wspomnieć nie zapomnij. Rym czasownikowy, weź się głębiej w łeb niedolni. Piszcie co nas sercu leży, a nie podręcznik szkolny. I gdzie chodzę po porach, gdzie nie jeden sieć kompleksa klawiaturą chowa. Inny daje zdjęcie z fakiem, pedał zły na cały świat, bo z nim rozszedł się z chłopakiem. Trzeci padł w skate'u, raz na co się cienia boi. Typ co po 20 to już z domu nie wychodzi. Mlekiem byś go polał, co by go wciągnął krzaki. A już sam widok myszy, to by go strachem zabił. W sumie szkoda słów, na takich oni mają nawyk. Na necie przy kozacach, bo to dla nich szczyt odwagi. Tak, bo to dla nich szczyt odwagi. No bo ty się boisz myszy. Czy nie śmieszne to? Śmieszne to. Ale ty się boisz myszy. Tak jak mało kto. Mało kto. Ty się bardzo boisz myszy. Nie wie o tym nic. O tym, że się boisz myszy. Bo to taki wstyd. Taki wstyd. No bo ty się boisz myszy. Czy nie śmieszne to? Śmieszne to. Ale ty się boisz myszy. Tak jak mało kto. Bardzo boisz myszy. Nie wie o tym nic. O tym, że się boisz myszy. się boisz myszy. Boś to taki syn, a jaki syn. Że się boisz myszy. Boś to taki syn, a jaki syn. Siamo ritornati qui in diretta da Clandestino Cid su fuoriondaradio.intervista.org e volevo salutare il nostro ascoltatore Pasquale che ci chiedeva se prima Isabella parlava della, di Absolut, della vodka, dato che in Polonia è molto famosa la vodka. Parlavi di questo? Sì, sì, ma cosa tu... No, no? Ah sì, scusa, non capisco. Ok, sì, prima parlando di Dio, sì, di Absolut, ma ora possiamo parlare per vodka. Ok, la vodka è comunque molto buona, il nostro amico piace un sacco, infatti l'ho detto che lui crede nella vodka. Non crede in Dio, crede nella vodka. Anche qui ci sono in studio altre persone che credono nella vodka. In Polonia la vodka è abbastanza buona. Invitiamo la Isabella, quando si ritornerà in Italia, di portare un po' di bottiglie di vodka. Certo, sì, sicuro. La migliore vodka in Polonia è Żubrówka. La nome è molto difficile, ma vodka è buonissima. Ok, la vodka, vedo che ci sono anche consensi da parte di Barbara, la nostra tarla, un saluto particolare a lei. Cosa volevo dire? Mi sono dimenticato. Quindi passo la parola a Ciccio. Niente, salutiamo anche Cesarino che ci ascolta da Pisa. E poi Alessandra che ci ascolta anche dalla Polonia. Un abbraccio, Opole. E che dire? Niente, Peppe doveva fare una romanzina appunto all'amico che ci ascolta da Pisa, amico slash cugino. Vai Peppe. No, volevo invitare il nostro amico ad usare software libero, non usare software proprietario della Apple. E noi trasmettiamo infatti su una piattaforma libera che è GIS, il servizio di streaming, più utilizzando Linux e Internet DJ Console, perché il software deve essere libero come tutto. Tutto il mondo deve essere libero, ognuno... Non dobbiamo vivere in una società capitalistica, quindi utilizziamo tutto libero, come il software, appunto. A proposito di capitalismo, e Isabel, ti piace te il capitalismo? Sì, mi piace molto il capitalismo. Ah, benissimo, allora... No, perché tipo? Sì, adesso toccheremo anche questo argomento. Però volevo leggere questa notizia a proposito di capitali e non capitali. La Coca-Cola sbarca in Birmania, Peppe, per i prossimi 3-5 anni, un investimento del leader dell'opposizione birmana che chiede alla comunità internazionale di investire nel suo paese. Cioè, naturalmente è una bevanda fresca, genuina, come la Coca-Cola, che ancora manca di un ingrediente segreto che, anzi, abbiamo... So una cosa, che praticamente cambierà di colore la Coca-Cola, perché praticamente provoca danni a livello tessutale. E niente, in Birmania ci provoca un investimento su questa bevanda fantastica. Isabel, tu quindi di quello che ha detto Laura? Ok, perché io non sono comunista, sì? Qui, scusa. Qui tanti comunisti, sì? Ma in Polonia, scusa, Laura ha detto sì, tanti comunisti. In Italia tutti comunisti, e io credo lei, perché... sì, ma io non piace comunismo, perché in Polonia c'è prima tanto comunista. Sì, quando c'è comunismo non c'è niente in negozio e per questo mi piace capitalismo. Sì, e anche quando c'è comunismo non c'è libertà. Perché? Perché tutte insieme, tutti comune, abita in comune, sì, e non è buona. Ma Isabel, era Cracovia quella città dove praticamente c'erano... tipo io so una storia, no? Di delle popolazioni che si sono dovute spostare da una città all'altra. Tipo adesso ci sono etnie tedesche e in altre invece russe. Cioè quando c'è stata la guerra che... qual è la città? Ok, che ci pensa la nostra... C'è anche Austria, sì. Sì, Cracovia, Austria prendi Cracovia. No, Germania, no, Russia, Cracovia, sì. Va bene, noi lanciando il secondo pezzo e dedicandolo a Cesarino dalla... che ci ascolta da Pisa, diciamo no a tutti i sistemi totalitari che ci sono sulla Terra. Ah. Ok, posso saluti questa ragazza a Pisa, sì, salutiamo tutti, anche Laura. Laura voglio studiare a Pisa, anche, ok. Dedichiamo un pezzo a Cesare, il pezzo è Safari di Giovanotti. Al vento, al vento, Si ritorna, e anzi i problemi non li abbiamo avuti all'inizio, ma cominciano ad arrivare adesso. Proseguiamo con l'intervista a Isabel. E comunque si parlava di problemi risolti. Peppe mi dice problemi risolti. Si parlava di sistemi totalitari e sistemi non totalitari. Quindi Isabel, hai detto la tua. Comunque una nazione che ha sofferto tantissimo, sia da un fronte che dall'altro, dal fronte tedesco che da quello russo, la Polonia. Comunque ne è uscita molto provata, giusto? Sì, sì, giusto. Ok. E adesso a livello attuale la politica com'è in Polonia? Ora è destra, sì, a Polonia è destra. E ora io penso buon tempo, time, good time in Polonia. Perché sì, c'è mondiale, tutti europei. Sì, questa sì, calcio. E tutti persone, no tutti, ma tanti persone lavoro, sì, hanno lavoro. E io molto felice perché io sono polacca, il mio paese tutto è buonissimo, io penso, ma non lo so perché io mezzo anno sta qui e non lo so cosa c'è a Polonia. Io ho paura quando io torno e Polonia in crisi. Wow, no no no, io credo no no no, crisi non c'è in Polonia, sicuro. Quindi Isabel, comunque diciamo che a livello attuale il governo che c'è funziona bene. Sì, sì, mi governo, credo, funziona benissimo. Ok, ma io ho una domanda per voi. Voi conoscete la Polacchi, molto popolare, Polacchi, non lo so, in filosofia o musica o non lo so. Io conosco Copernico. Che bello, sì, Copernico, Chopin. Sì, Chopin, la ragazza musica, sì, la compositore di fortepiano. Cosa? E anche la Maria Curie Skłodowska, la chimica. Curie, sì, Curie, anche ragazza polacca. Che ragazza intelligente in Polonia. Ok. Ok, ok, ok. Quindi vabbè, salutiamo Copernico, Chopin e Maria Curie se ci ascoltano da qualche parte. E a livello attuale, cioè musicalmente parlando, oppure sul campo filosofico, artistico, chi c'è di grandi artisti? Sì. Aspetta, penso. In filosofia. Io sì, perché io sì, tu di filosofia, ma in musica ho, non lo so, grande cantante, penso no, voi non conosciuto qui. Aspetta, forse Maryla Rodowicz, ma lei è un po' vecchia, ma canti bene canzone molto popolare in Polonia, sì. Ok Isabel, adesso niente, l'altra volta con Peppe parlavamo di un pezzo reggae che si chiama Don't Worry Be Happy. Lo conosci Isabel? Certo, Bob Marley, sì. No, l'originale non è di Bob Marley. Comunque, sì, adesso ascoltiamo l'originale. No, comunque si parlava del pezzo, no? Che a livello scientifico anche... cioè, ha proprio una filosofia dietro questo pezzo. Perché probabilmente porta felicità, solleva le persone. Sono stati effettuati proprio degli studi al riguardo. Ti piace questa canzone? Sì, mi piace molto. Ok, io la vorrei dedicare a tutti gli amanti del reggae e ricordare che comunque c'è in programma sto film di Bob Marley che uscirà a breve, non lo so quando. Beppe, ti lancio la palla e buon ascolto. Mandiamo questo pezzo, volevo dire che anche a me sembrava che questo pezzo era di Bob Marley, non lo sapevo nemmeno io. Vabbè, andiamo con Don't Worry Be Happy. Thank you. a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. Hey, I give you my phone number. When you're worried, call me, I'll make you happy. Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style. Ain't got no girl to make you smile. But don't worry, be happy. Cause when you're worried, your face will frown. And that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Eccoci ritornati qui in studio, sempre il nostro studio all'aperto. Volevo dare una notizia che ho letto l'altro giorno su internet. Festeggia il sabato sera, ubriaco al volante con a fianco un maiale di 70 kg. Questo qua è successo in Italia, a Pescara. In pratica i carabinieri hanno fermato questo ragazzo che guidava la macchina completamente ubriaco e a fianco aveva un bel maiale di 70 kg, un maialino, diciamo, un piccolino. Io vorrei vedere la faccia dei carabinieri che hanno fermato questo ragazzo. Che faccia hanno fatto? Cosa ne pensi tu, Isabella, di questa storia? È impossibile. Sì, questa è possibile solo in Italia. In Bologna impossibile. Noi beviamo tanti alcol, tanti vodka, ma mai divertiamo con pic. È perché sono gente seria. No. Beh, poi comunque non ci trovo niente di strano. Tipo, ci sono. Si usa anche portarli al guinzaglio, i maialini piccolini. Li tengono anche in casa. Sì, come i cagnolini, no? Alla fine è un animale. Pensa anzi che l'insulina che usiamo per curare le malattie del nostro corpo viene dai maiali. Quindi è un animale importantissimo. Da domani tutti in macchina con un maiale, ok? Ok. Grande rispetto per il maiale, che è il mio animale preferito, da cui ricaviamo un sacco di salumi pregiati che in Calabria sono una specialità, che sono molto buoni. Salsicce, capicolli soppressati, nduja. Lo sponsor ufficiale della nostra trasmissione sono le nduja. Parola a Tarlo, che quando si parla di mangiare è sempre in prima fila. A proposito di maiali, ricordiamo una specialità della nostra terra, soprattutto delle mie parti, il maiale nero. Una specialità. Eh sì, sono molto buoni, Isabel. Anche in Polonia mangiate tanta carne. Sì, sì, anche in Polonia noi mangiamo tanta carne, ma no, simile di questo. Ma qui mangiare è molto buono. Mi piace molto dolce. Dolce, gelato, sì. And a Sicilia ho mangiato sì, panna cotta. Sì, sì, io posso parli a panna cotta tante ore, sì. Basta. Ok, finitiamo. Finito. Ok, ok. Peppe di. Arriva una precisazione dal nostro pubblico, un attento osservatore qua, ascoltatore. Ha detto che una volta veniva presa dai maiali l'insulina, ora si crea geneticamente il laboratorio. Qua Ciccio ci è caduto sulla tua, proprio sulla tua materia. Vabbè. E cosa hai da dire tu di scopo? No, gli dico che comunque non so chi sia, lo saluto con affetto, però la vissezione è una pratica che viene ancora usata, e chi ci va di sotto sono le orecchie di coniglio. Non penso che un coniglio, Peppe, sia favorevole a farsi spuntare le orecchie per ad usi farmaceutici. Oppure lo stesso anche gli animali, soprattutto il maiale che possiede un organismo quasi paragonabile a quello dell'uomo, viene sfruttato tantissimo questo animale. Quindi io dico respect per il maiale, respect. Sì, sì, d'accordo. Ok, Peppe, a proposito di animali e non animali, io volevo leggere questo articolo. Perché il rock tira fuori l'animale che è noi? Alcune dissonanze, come quelle sfruttate in alcuni famosi brani di Jimi Hendrix, hanno caratteristiche sonore comuni alle vocalizzazioni di animali in difficoltà. Quindi pensa, Peppe, quando viene ucciso un maiale, che sonorità daranno? Voglio dire, qui si parla proprio di dissonanze che provocano comunque delle reazioni dentro di noi. E niente, passiamo un pezzo dei Skid Row adesso. Monkey Business. Well, outside my window there's a whole lot of trouble coming. The cats and killers and the rank of a clones. Stack heels kicking a rhythm of social circumcision. I can't close the closet on a shoebox for love. Taking down for who? grandissimo pezzo, e lo dedichiamo a tutti gli animali che soffrono nel mondo, anche in particolare i cani che ci sono qui all'università, no? Isabel, a proposito di cani, non cani, quello che sta succedendo in Ucraina per quanto riguarda il massacro dei cani randaggi, sì. Sì, questa massacra è brutta. Quando ho visto questa foto, sì, io molto triste. Sì. Io ho cane in mia casa, in Polonia io ho cane, ma lui è un po' strano. Io penso lui non piace me. Non lo so. Io voglio fare amicizia con lui, sì. E io parlo, sì, con il mio cane in mia casa. Io parlo con lui, sì, carino cane, bla bla bla, io da per lui mangiare, ma lui non piace, ma sicuro, non lo so, ok, Buster, sì, salutiamo ti Buster, ma io sicuro tu non senti questo, ma mi dispiace, scusa, non lo so, ok, prima quando lui vieni a mia casa io molto antipatica per lui, perché lui è brutto, ma mio papà ha detto che bello cane, sì? Ok, lui sta ora in nostra casa, ma quando io prima antipatico per lui, ora lui antipatico per me, sì. Perché stanno uccidendo questi cani? Okay? non lo so, mi dispiace, non lo so. Va bene, Isabel. Niente, dopo aver salutato il cagnolino di Isabel, che razza è, un pastore tedesco, no? Marrone, Buster è marrone, ma non lo so. Io non guardo tanto per lui perché io ho paura lui mangi me. Per questo non è andato d'accordo. Vi dovete. Ci prometti che quando ritornerò in Polonia comunque riuscirai a costruire un rapporto migliore con il tuo cagnolino, con Buster? Ok. Va bene. Ok. Lanciamo la palla a Peppe, vediamo se vuole dire anche lui qualcosina su Buster, o non lo so. Saluto anch'io Buster, ciao Buster. Grande cane, bravi, grandissimo cane. Lo ricordo quando è venuto qua a trovarci tempo fa. Sarà il prossimo ospite della trasmissione. Salutiamo i cani che passeggiano sul ponte, poverini che in questo caldo anche loro soffrono tantissimo. E volevo rilanciare l'annuncio dell'altra volta, che ci sono dei pincher bastardi, non sono pincher originali, quindi non sono quei cani che costano assai, che c'hanno 9 e devono trovare una casa. Se qualcuno volesse un pincher, ci contatti qua su Clandestino. Sì, sono di taglia piccola. Lo vuoi tu uno? Sì, forse abbiamo trovato un'estimazione. Salutiamo anche Barbara che saluta i cani. Abbiamo trovato una persona che vuole un cane, perfetto. Eccolo qua, è arrivato anche il cane ora, il cane che passa dal ponte. Un saluto anche a lui. Un cane pastore sarà questo qui, che lo vediamo ogni giorno che va a mensa e poi torna a casa. Io proseguirei con il prossimo pezzo. Il prossimo pezzo che non poteva che essere. No? Passiamo la parola a Cicci. Dato che comunque abbiamo trovato una famiglia per un pincher, vorrei sapere il nome, Laura. Se. Ah. Però non lo vedo deciso. A sentimento. Secondo te un cagnolino così piccolino come si potrebbe chiamare, Isabel? È difficile, non lo so, ma penso e dopo parlo, ok? Ok, Peppe, dicevi? Andiamo con il prossimo pezzo, che è un grande successo dei di Caparezza. Manderemo il dito medio di Galileo. Accetti ogni dettame. Senza verificare. Ti credi perspicace, ma sei soltanto un altro dei babbè. Metti bene, Teneva in casa e leggeva libri proibiti. Galileo negli ultimi 18 mesi non è mai andato a messa. Galileo convive con una donna, ma soprattutto Galileo fa gli oroscopi al Parlamento. Leggeva, teneva in casa e leggeva libri proibiti. Teneva in casa e leggeva libri proibiti. Galileo convive con una donna. Galileo convive con una donna. Galileo negli ultimi 18 mesi non è mai andato a messa. 18 mesi non è mai andato a messa. E non si è mai confessato. E non si è mai confessato. E non si è mai confessato. Galileo leggeva libri proibiti. Siamo ritornati qui all'aperto di fronte all'aula più occupata dell'unica del ponte Pietro Bucci, dove ci sono un sacco di bella gente qua. C'è Ciccio, Tarlo, Laura, Isabella, Giovanni e Gonzalo. Non si è Buonasera a tutti, buonasera, eccoci di nuovo qua con Gonzalo, mi sta facendo vedere le foto. No, devo dire che è proprio Isabella, è proprio una polacca verace, quindi è bellissima, è bionda, gli occhi verdi, sì sì, è proprio verace, proprio boh, è, diciamo, verace, è autoctona, proprio perfetta, proprio una polacca che è proprio straordinaria. Vabbè, detto questo, so che non vi importa nulla, però ci tenevo, dai, ci tenevo. Perché comunque ascoltandoci non si capisce bene. Cioè non si vede comunque. Dobbiamo fare una live, come si dice? Live cam, no? Vabbè, comunque, dai. Passo la parola a Peppone. Dopo questo capolavoro di Giovanni. Bellissimo. Vediamo cosa ne pensi Isabella dei complimenti di Giovanni. Io non capisco tutti i complimenti, ma grazie per quel quale capisco. Capisco. Ok, ritorniamo un pochettino in argomenti un po' più seri. No, più seri, più altri tipi di argomenti, diciamo. Meno veraci. Il Giappone, il governo ha disposto di nuovo il riavvio dei reattori nucleari. Tempo fa ne avevamo parlato alla trasmissione. Malgrado la crisi di Fukushima, la più grave della storia dopo Chernobyl, il premier Noda ha deciso di riavviare le centrali nucleari. L'altra volta ne avevamo parlato in radio. Cosa volevo vedere, volevo chiedere a Isabella cosa ne pensa della centrale nucleare, dato che la Polonia è vicina a Chernobyl. Non so se conosci la storia, penso di sì. Cosa ne pensi del nucleare? Cosa io penso? Non mi piace questo, perché mi piace Pax, sì? Peace. Sì, peace. No, sì. Sì, no, mi piace questa stazione nucleare, perché io penso questo non bisogna, perché quando tutti al mondo amici, noi non bisogniamo la stazione nucleare. Sì, a Chernobyl è grande tragedia, sì. È brutto, tanti persone ora, anche ora, fa malattie, brutta cosa. No, no, no, molto vicino, ma sì, più vicino di Cracovia, no, di Italia, sì. Quindi vuoi lanciare un messaggio, magari sfruttare altri tipi di energia, non quella nucleare, no, perché fa malissimo e non è controllata come a dovere, diciamo. Sì, sì, penso questo, sì. Nucleare, sì, no, è buono. Penso che intendeva sulle armi nucleari, Isabella. Comunque, ne parlavamo del nucleare anche per usi civili. Ricordiamo che le rinnovabili sono una fonte molto buona di energia, però volevo anche ricordare che l'abuso che se ne sta facendo dalle nostre zone, specialmente dalle mie zone, dove hanno riempito un territorio pieno di pale eoliche, uno ogni metro. E pale enormi che hanno distrutto il territorio e anche è stato creato anche un parco fotovoltaico di 38 ettari, che è qualcosa di immenso. Io direi che i pannelli fotovoltaici vanno messi sui tetti delle case, non un terreno di 38 ettari adatto all'agricoltura che viene così rubato all'agricoltura stessa e viene dedicato soltanto come impianto fotovoltaico. Quindi siamo per i microimpianti, non questi maxi impianti che sono distruttivi per la natura, sia per l'impatto ambientale che per il resto. Ciccio, vuoi dire qualcosa? Oppure mandiamo un pezzo. Mandiamo il pezzo di Isa. L'altro pezzo che è di Grabson. Grubson, nie. Cosa vuol dire? Grubson, molto popolare, sì, sì, ok, ma prima qualcosa per Grubson. Grubson, questa è la mia più buona canzone, ok, cantate, sì, preferita, ok. Nie, questa è no, è la canzone di Tu voglio la brutto mondo, no, sì, e capisci? You pensavi, a dilly dally dilly, czy chcecie, aby nienawiść była z nami? Ze strachu zimny pot był na ciele. patrzeć jak jesteśmy oszukiwani, jak umierają nasi przyjaciele, być kierowany przez rząd skorumpowany, by nasze ego przerastało nas, rządziły nami tylko many, many. Powiem to sobie i wam jeszcze raz. Stanowcze nie, trzy razy nie, może w końcu nas oświeci. Pośród gęstej zanieci, gdzie nie mają co jeść dzieci. Nie tylko w Afryce, ale na całym świecie, man, wiesz jak. Ciebie dostać trudno, spod bramki kład. Uwaga, łaciał, na naszych oczach z rąk człowieka giną nasi bracia i nasze piękne siostry, choć wiadomo, że świat nie jest prosty. I tak spalamy za sobą mosty, bez kary i bez chłosty. Ej, ludzie giną, umierają, ale nie wyrastają jak wodorosty. Zabójcy, pedofile, w piekle upieką się jak tosty. Tak jak cała reszta opętanych całkowicie przez zło, to coś ty nie ominie ich to. Boś ty jedynym z tych sprawiedliwych, a wielu nas jest. Mamy życiowo, może nie pasę, ale na pewno pasję. Nie, nie chcemy bólu, cierpienia i łez. My poradzimy sobie bez tego, na pewno o tym wiesz. Nie, nie chcemy bólu, cierpienia i łez. My poradzimy sobie bez tego, na pewno o tym wiesz. Jama. Czy chcecie, aby nienawiść była z nami? Ze strachu zimny pot był na ciele. Patrzeć jak jesteśmy oszukiwani, jak umierają nasi przyjaciele. Być kierowany przez rząd skorumpowany, by nasze ego przerastało nas, rządziły nami tylko many, many. Powiem to sobie i wam jeszcze raz. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Tyle zła otacza zdrowe umysły biednych mas. Gęsta mgła przed oczami zatruwa jak gaz. A my podatni na to ulegamy tym pokusom, brat. Cały czas spada na nas zła grat. Więc bądźmy ponad nim, uwolnimy, wydostańmy się z przeklętej matni. Nasza magia niech do tego ciebie ponagli. Otwórz swe serce i miłość dopadnij, man. My ją dajemy wam, my ją dajemy wam. Czy chcecie, aby nienawiść była z nami? Ze strachu zimny pot był na ciele. Patrzeć jak jesteśmy oszukiwani, jak umierają nasi przyjaciele. Być kierowany przez rząd skorumpowany, by nasze ego przerastało nas, rządziły nami tylko many, many. Powiem to sobie i wam jeszcze raz. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie, nie, nie. Po co szukamy radości, kiedy mamy ją obok siebie? Po co szukamy szczęścia, kiedy mamy je obok siebie? Czemu przelewamy tyle krwi, skoro mamy do wyboru wiele innych opcji? Pozytywnych emocji, magia są dusze w mocy. Przestań być królem, a z tego ja zdej mi koronę. Nie pozwól, by ta zła zastąpiła tą dobrą stronę. Strażnicy Pana, strażnicy miłości, my podamy na kolana, by od zła uchronić ludzi. By od zła uchronić ludzi. Agen, agen, agen. Czy chcecie, aby nienawiść była z nami? Ze strachu zimny pot był na ciele. Patrzeć jak jesteśmy oszukiwani, jak umierają nasi przyjaciele. Być kierowany przez rząd skorumpowany, by nasze ego przerastało nas, rządziły nami tylko many, many. Powiem to sobie i wam ostatni raz. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Siamo ritornati sempre qui su Clandestino Cid, stasera in straordinariamente di martedì, dato che ieri c'era un impegno, avevamo un impegno, non siamo potuti venire, cioè ci siamo messi la partita, come tutti voi penso, e quindi siamo di nuovo qui, abbiamo anche il nostro Casanova, qui, come si chiama? Casanova, nostra Casanova, aspetta... Giovanni, sì, Giovanni, simile di mio fratello più piccolo, ma lui io credo no, Casanova. Non può essere Casanova dato che è polacco, Casanova è italiano, no? No, no, Casanovi, io credo Casanovi solo in Italia, solo. Solo in Italia c'è di Casanova, Giovanni è un esemplare, diciamo, vorace. Come le vongole, quelle sono voraci però, no? O veraci? Veraci, vabbè, più o meno sono simili. Per esempio, è un paio di giorni che ti vedo, Carlo. È un paio di giorni che tipo proprio mi sembri proprio verace, il tarlo verace, proprio il vero tarlo, proprio con la pancia specifica, i modi di fare, i gavettoni. Comunque invitiamo tutti, colgo l'occasione per una grandissima gavettonata in P2. Ovviamente, visto che adesso mi sta mettendo un po' di fretta che deve parlare, gli facciamo un bel gavettone collettivo a Carlo. Diciamo, deve morire affogato. Ma... Prego, Carlo. Vabbè, dai, sei un paio di giorni che sono tornato quello di una volta. Mi mancavate. Dai, sono stato a Roma tutto questo tempo. No, l'accento no, ma dai, ma tu non ti allargare, però. Ok, ok, e niente, io volevo ringraziare Original Freestyle from Poland, un bel pezzo, un bel pezzo. Come si chiamava il gruppo? Groupson. La canzone era? Gne gne gne. Gne gne gne, bellissimo pezzo. Io adesso vorrei lanciare una notizia che ci arriva direttamente dalla Spagna, la nostra inviata Maria, della scorsa puntata, la ragazza che abbiamo intervistato e che salutiamo, Maria, Margherita, Diego e Manuel. Praticamente ha taggato questa notizia che nell'ospedale di Santiago si ritarda il controllo periodico per i malati di cancro, praticamente dal 2008 che è stata effettuata l'ultima operazione. Diciamo che in Spagna come in Italia la sanità non va tanto bene. In Polonia come va la sanità? Ospedali? In Polonia la ospedali non molto buona, ma la nurse infermiere, sì, infermiere è molto buona, e tante infermiere from Polonia va qui a Italia e lavoro qui a questi ospedali. Comunque avevamo una correzione in streaming, diciamo, in diretta di Gonzalo, che ci diceva che no, in Spagna va molto bene la sanità e che ogni tanto troviamo dei tagli comunque dovuti alla crisi, a quello che c'è in giro. È quello che succede qui in Calabria ogni tanto. Ricordiamo molti casi di negligenza, di mala sanità. Tutte le morti per mala sanità. Volevo fare un complimento alla sanità calabrese, diciamo che è una delle migliori d'Italia. Abbiamo dei poli d'eccellenza straordinari come quello di Vibo Valentia, ricordiamo, uno dei migliori ospedali d'Italia, quello di Lamezia Terme, quello di Crotone, quello di Cosenza, quello di Catanzaro, quello di Reggio Calabria, quello di Soveria Mannelli, quello di Soverato, quello di Chiaravalle. Abbiamo degli ospedali che diciamo che sono tra i migliori in Europa, dove si muore perché manca la corrente elettrica o perché si dimenticano una band dentro uno stomaco dopo fatto un'operazione. Si forbici, molto peggio. Si muore per... Tipo, se vai a casa dopo l'operazione ti servono le forbici, boh, ti serve una band, no? Che fai? Ce l'hai nella pancia? Infatti, così di solito a casa mia è difficile trovare le forbici che le nascondono sempre. Guarda caso, ce l'ho là, apro qua e via, le forbici. E mi posso tagliare le unghie finalmente. Che cavolo. Noi ci scherziamo su, però la sanità è un problema, diciamo, in Calabria che... forte, e ricordiamo che i soldi che si potrebbero investire per costruire il ponte sullo stretto potrebbero essere rindirizzati sugli ospedali, che molti stanno per essere chiusi qui in Calabria. Noi non siamo per mantenere tutti questi ospedali così come sono, ma siamo per mantenerli così come mantenere quanti sono e migliorarli. Stasera non riesco a dire bene le parole, migliorarli, perché ci sono alcuni ospedali che stanno nelle zone di montagna e quelle comunità non possono farsi mezz'ora di macchina per recarsi all'ospedale più vicino, dove rischiano la morte, dato che le strade in Calabria, ricordiamole che sono autostrade a 7 corsie, come in Giappone più o meno, quindi investiamo questi soldi del ponte sullo stretto e della TAV negli ospedali, miglioriamo... la nostra vita. Niente, io a proposito, dato che hai citato il ponte, vorrei ricordare a tutti che sulle inchieste di Repubblica praticamente sono disponibili degli articoli che appunto si parla delle infiltrazioni del ponte. Caro Peppe, si è scoperto che nei lavori che dovranno andare comunque in porto, che già sono stati stanziati, sono già avviati, c'è la mano dell''ndrangheta, capito Isabel? Hai capito? Mafia. Aspettate, abbiamo una notizia d'ansa delle 23.07 di Isabel. Ci dice cosa? Mi piace molto Mafia, molto, perché io ho legato, sì, ho legato il padrino, sì, e io amo la Michael Corleone, amo, e per questo io va qui, a Calabria, perché io voglio conosci la mafiosa, sì? Ma io sto qui un anno e non conosco nessuno da mafia. Allora, queste parole mi lasciano così un pochettino. Volevo leggere una notizia sugli ospedali, però diciamo che va in secondo piano. Questa notizia diceva che la Calabria è al primo posto in Italia come i peggiori ospedali. Però dopo questa bellissima notizia volevo ricordare che la mafia in Calabria purtroppo esiste tutti i giorni. La mafia non è solo quella del film Il Padrino, ma la mafia la troviamo tutti i giorni, che avvelena le nostre terre, dove buttano le scorie radioattive nei nostri fiumi, uccidono persone innocenti per strada in un attentato di 'ndrangheta. E sono infiltrati nelle nostre amministrazioni comunali, provinciali e regionali, e si fanno i soldi sulle nostre spalle, diciamo, che noi povere persone che vogliamo un posto di lavoro, dopo laureati dobbiamo andare dal politico di turno che vuole il voto di scambio per darci un lavoro di merda in un call center. E questo lavoro ci viene dato solo tramite questo voto di scambio. Anche questa qui è 'ndrangheta, è mafia, che non si, la mafia non è solo questa dei film che vediamo il ragazzino con il bel ragazzo come Giovanni col baffetto che fa il Casanova e col cappello, ma la mafia è molto spietata e non ci pensa due volte a speculare sulla vita dei cittadini. È una piaga che affligge la nostra società, specialmente il meridione d'Italia. E speriamo che un giorno ne possiamo uscire da questa piaga, però questa piaga non si può debellare con l'esercito, con la polizia, come ci vogliono far credere dal governo, ma bisogna che cambiamo mentalità qui in Calabria. Con la cultura ci può fare soltanto migliorare, progredire da questa situazione tragica, diciamo. Se riuscissimo a non essere omertosi, che la mafia si fonda su questo principio, l'omertà. Tu vedi qualcuno che commette un qualsiasi reato, diciamo, ammazza una persona, butta, inquina i nostri fiumi, fa la peggiore porcheria del mondo, se noi ci giriamo dall'altra parte diciamo che non sono cazzi miei, ci stiamo zitti. Bisogna cambiare questa mentalità e solo così potremo uscire da questa crisi, che è una vera e propria crisi. Ciccio, tu cosa ne pensi? Sì, come dicevi, è appunto tutta una questione mentale, è una mentalità ormai radicata proprio nel territorio stesso. Comunque il territorio è sempre l'ecosistema che vivi, quindi ognuno si abitua al proprio ecosistema, e c'è proprio il concetto, sì, del fortensene, di tutto, di mandare tutto a fanculo, non mi appartiene, non partecipo a questo, a quello, ed è una cosa molto negativa. Così si incrementa, perché comunque la mafia va anche distinta tra mafia che commette delitti e mafia bianca, la mafia che vediamo anche qui, cioè in luoghi tipo anche università, perché non abbiamo peli sulla lingua, ospedali e varie strutture burocratiche in generale. Però Isabel naturalmente mi diceva che lei ha detto che comunque la mafia non esiste perché non ha incontrato un mafioso. Io passerei la parola di nuovo a Isabel per sapere, commenta la tua tesi. Aspetta, ok, no, la, ok, io non credo la mafia esiste, ma ok, ragazza italiana ha detto ok, esiste, non lo so, boh. Ma va bene, in Polonia anche esiste la mafia, ma io non conosco mafioso e io penso non esiste, non credo per questo. E cosa? È tutto, sì. No, volevo ricordare che anche la mafia sono tutti questi intrallazzi che ci sono anche qui all'università per prendersi gli appalti delle autostrade, delle gallerie che vengono fatte con cemento depotenziato e poi cadono, mentre passa una macchina di sopra cade un ponte, cade una galleria, e i binari dei treni vengono fatti sotto appalto e poi mancano i mezzi bulloni perché le costruzioni antisismiche che non sono fatte a regola, questi viene messo meno ferro, per esempio serve 10 kg di ferro, ma sto facendo un esempio così senza senso, e ne mettono 5 perché il resto devono specularci sopra, cemento che è solo terra, sabbia di mare, e poi le case crollano e la gente muore. E vabbè, dopo questo, diciamo, questa piaga della nostra società, che volevo mandare un pezzo che è Down in Messico. Andiamo. Siamo ritornati qui in studio da Clandestino Cid. La trasmissione clandestina. Non lo so, la definizione della nostra trasmissione com'è, Ciccio? Verace. Allora diciamo che è un po', è molto verace la nostra trasmissione, con Giovanni che... Casanova, no Giovanni. Giovanni il Casanova, che è come le vongole è verace. E passiamo la parola al nostro inviato da Roma, Tarlo, che è venuto qui oggi con le ultime notizie da Roma. Vediamo cosa è successo a Roma in questa settimana, Tarlo. Vabbè, cosa è successo a Roma? Diciamo che c'è stato un evento abbastanza importante a livello culturale. Il Teatro Valle ha festeggiato il primo anno di occupazione e... Dovresti usare il tuo accento romano per Tarlo quando parli di Roma. No, l'accento romano non l'ho preso, quindi non mi potete chiedere questo. No, niente, dicevo, il Teatro Valle occupato sta festeggiando in questi giorni il suo primo compleanno, quindi c'è una rassegna fino al 5 luglio, ogni sera c'è uno spettacolo, nel pomeriggio c'è un dibattito, quindi cercate sul sito del Teatro Valle occupato il programma dettagliato di tutti gli eventi e delle manifestazioni. E se siete a Roma, se passate da là, potete anche diventare soci e fondatori della Fondazione Teatro Valle Occupato lasciando una piccola donazione. Comunque sul sito trovate tutte le modalità per poter partecipare. Vabbè, poi no, sta arrivando l'estate, ci sono varie rassegne musicali, culturali, di tutto. Non so. Ok, e da Roma ci spostiamo in Amazzonia, praticamente per dire che Clandestino Cid è vicinissima e accoda la protesta degli indigeni contro la diga, praticamente pescatori, contadini, attivisti ad Altamira in Amazzonia, per richiamare l'attenzione della conferenza Rio più 20 della prossima settimana sui danni che causerà la costruzione della centrale idroelettrica di Belomonte. Praticamente durante l'occupazione, che punta a liberare il fiume Xingu, gli indigeni si sono radunati lungo un argine con pale e picozze e hanno aperto un piccolo fossato come azione dimostrativa contro il mega impianto. Comunque, mettendosi in fila, hanno quindi formato il messaggio Stop Belomonte. Peppe, quindi analizziamo il punto. Costruire e portare avanti comunque un sistema capitalista del quale è mafioso, del quale Isabel ne va fiera, anche comunque per quanto riguarda le elezioni in Grecia, Peppe, perché la Merkel tanto lancia anche messaggi al popolo stesso e dire votate chi sarà dalla parte dell'Unione Europea, cioè guardati gli affari della Germania, no? Quindi qualcosa c'è sotto e nessuno la vuole dire. E intanto comunque anche il concetto stesso di imperialismo che si fa presente, Peppe. Ci sono un po' di concetti in questo che hai detto molto forti. Partiamo dalla Grecia, che la Merkel ovviamente, siccome deve recuperare il debito della Grecia, ha interessi che la Grecia non fallisca, che esca dall'euro, quindi vuole portare un amico al potere, così è più facile recuperare questi debiti. Come in Italia, che è stato messo Monti, che è un tecnico che governato dalle banche europee, quindi cerca di imporre tasse per poter risanare subito il debito con l'Europa. E per quanto riguarda Belmonte, qui vicino a Mantea, no scherzo, la centrale di Belomonte in Amazzonia. Ritornando al discorso di prima, siamo contro perché questi maxi impianti non dovrebbero esistere, dato che si costruisce un maxi impianto qui per portare l'energia a centinaia e centinaia di chilometri, ma ogni zona dovrebbe essere un minimo di indipendenza, dovrebbe avere energetica. Per esempio, costruiamo una piccola centrale eolica qui e questa è noi, la comunità di quella zona dovrebbe usufruire di questa corrente. Non che si costruiscono dei tralicci di chilometri e chilometri, per esempio si costruisce una centrale eolica qua dietro l'università e poi si porta a Taranto. Non ha senso, costruisci la Taranto, voglio dire, così eviti anche il traliccio, eviti dispersione di energia vari problemi che possono causare queste strutture intermedie. Gli indigeni della zona dell'Amazzonia fanno bene a difendere il proprio territorio, ma purtroppo l'imperialismo che vuole governare quelle zone lo imporrà con la forza. Purtroppo moriranno anche gente, sicuramente, come hanno fatto in passato. Viene in mente un film che ho visto tempo fa, come si chiama, quello Avatar, che parla appunto di una situazione simile, che i terrestri vanno su questo pianeta per conquistare le risorse di quella determinata zona e vogliono uccidere tutti questi avatar, questi, non mi ricordo come si chiamano, quei gatti, la gigante blu. vediamo, passiamo la parola a Isabel. No, sul fatto dello sfruttamento di una potenza sugli stati più deboli. Capito? Uno stato forte va in un altro stato e gli prende le cose. Questo qua. No, sicuro no, non è giusto, è brutto. Vedi, qui Isabel mi dà del Casanova, io essendo coerente voglio andare avanti elogiando la bellezza nordica di Isabel e allacciandomi quindi col nord Europa, Angela Merkel. Faccio un appello a Angela di venire qui a Clandestino Cid a partecipare a una trasmissione, voglio vedere i suoi occhi bellissimi. Quindi diciamo, Isabel, invita pure tu Angela Merkel, boh. Parliamo insieme polacco tedesco, polacco, come farlo, capito? Va bene, parola a Peppone. Diciamo che avrei molti dubbi sulla bellezza di Angela Merkel, che è tutta tranne che bella, secondo me, secondo il mio modesto parere. E poi, se venisse qua, avrei un sacco di cose da dirgli ad Angela Merkel. Andiamo di nuovo con Isabel. Sì, ora io ho capito tutto. Sì, questo è bruttissimo. Ma in seconda guerra questa sì, grande paese, Russia, Germania, Austria, sfrutta Polonia, e questo è bruttissimo. Vediamo che anche Isabel ha la stessa nostra modo di vedere. Qui l'imperialismo, che è un problema che riguarda mondo odierno, ricordiamo lo sfruttamento dell'Africa e del Sud America soprattutto da parte delle potenze europee ed americane, e quindi non lo so, dopo questo discorso un po' serio manderei un'altra canzone, manderei la favola di Adamo ed Eva, va bene? Spiedini di carne in e dico quel che penso, penso quello che dico. Max Gazzè, Max Gazzè. Oppure come direbbe Cassano, se dico quello che penso, come ha detto l'altro giorno parlando degli omosessuali, lasciamo stare una un velo pietoso su Cassano. Vabbè, però complimenti, ci ha fatto un bel gol. Allora, leggevo una notizia molto interessante, sicuramente un caso nuovo come Giovanni si interesserà a questa notizia, Isabel. Praticamente, nel Regno Unito, una ragazza, e questo qua di 27 anni, non diciamo il nome, la sua, praticamente, cosa succede? Questa ragazza praticamente ha due cervelli, due uteri e due vagine. Un mostro, no, una bellissima ragazza. Infatti la riportano anche in foto. Comunque è una bellissima ragazza. Like Deutschland Girl? Yeah, like Deutschland Girl, yeah. Comunque, niente, lei, la ragazza parla tranquillamente del suo apparente problema. Appena l'ho scoperto, l'ho detto a tutti. È stato fantastico ed è utilissimo per rompere il ghiaccio nelle feste. Se... Comunque, ho perso la verginità due volte dal momento che avevo due email. Peppe, sì, ma io lo dico tranquillamente. E a proposito di comunque vagina e non vagina, Clandestino Citi si occupa anche di anatomia umana, certo. Passiamo in India. Adesso dal Regno Unito ci spostiamo in India. Con l'aereo, sì. Con quello che usava anche Madre Teresa di Calcutta. L'aereo lo stesso. E niente, a Nuova Delhi che cosa succede? Nei supermercati indiani c'è un prodotto che vende più della Coca-Cola, ma non è una bevanda gassata, si chiama Clean and Dry. È un detergente intimo con effetto sbiancante, praticamente l'ossessione delle donne indiane per lo sbiancamento della pelle, soprattutto nelle parti genitali. Peppe e Isabel, vabbè, no, questa qua praticamente è Clean and Dry, capito? Per sbiancare. Diciamo che facciamo l'intermezzo, io dirò qualche cosa, intanto che Isa cerca di capire la di quello che stiamo parlando, che non ha capito bene. Diciamo che sbiancano la situazione lì in India, vabbè. Diciamo che cambia poco, secondo me, tra i due colori. Tu, Isa, cosa ne pensi di questo sbiancamento? Per me è strano, strano. Non lo so. Laura, cosa ti penso? No, Laura vergogna molto, poverina. Cassanova, cosa ti penso? Penso sia una cosa bellissima comunque. Sì, fondamentalmente sì, perché capite, è bianco e c'è un senso di pulito. Sì, tipo boh, e invece di prendersi con questo sapone qua, che si dice che venda più della Coca-Cola, si vende più della Coca-Cola, e boh, pigliati con contagina, fa una cosa. Fermiamo questo scempio, proprio scempio, cioè, non lo so. Vabbè, Peppe, ognuno la sua, cioè c'era Michael Jackson, comunque invece di sbiancarsi soltanto le parti genitali magari ha preferito sbiancarsi tutto il corpo. Ha usato proprio il sapone su tutto il corpo, tranne sui capelli. Magari forse l'aveva preso nel caffè e poi ci è rimasto, infatti, non lo so, alla sua morte, qualche dubbio, qualcosa. Può darsi pure che ha usato questo sapone, sì, diciamolo, sì. Secondo me Michael Jackson è andato in India sicuramente. No, comunque volevo ricordare che le proprie origini sono importanti per ognuno di noi, non il nazionalismo, ma in generale le proprie tradizioni, la propria cultura è una cosa che non bisogna mai perdere, come il proprio dialetto, che è bello. Io amo il mio dialetto, amo le mie origini, non le rinnegherò mai, perché alla fine sono affezionato al luogo dove sono nato e dove sono cresciuto. E quindi invito tutti quanti a continuare a coltivare le proprie tradizioni, non perdere nel tempo. Quindi È una cosa bella le proprie tradizioni. Tu, Isabel, le tradizioni polacche le porti ancora avanti oppure sei cambiata? No, penso no. Tradizione è molto importante, sì. Anche io piace vostro dialetti, sì. Quando io va per... Sì, posso parlare? Ok. Quando io va, sono andata per Pasqua di mia conculina Laura a Slovenia, ma Manelli, sì. Loro parlando in dialetto, ma io non capisco niente. Ma questo è bello, perché... Omo, sì, io non capisco niente. Sì, io divertita. In Polonia noi non abbiamo tanti dialetti, sono in montagna, sì. Ma qui è bello tutto, sì, a dialetti anche. No, io parlavo, Isa, parlavo delle tue tradizioni, le tradizioni polacche. Tu le porti ancora avanti, sei, ci tieni le... Tu continui a fare le cose che si facevano un tempo in Polonia, ci tieni alle culture polacche. Sì, io continuo questa tradizione cosa. Pesce. Idiot, no, scusa. Scusa. Casanova, cosa tu pensi per questo tema? Sì, parli. No, tutto il mondo tipo se fate feste, cose, boh. Tipo noi c'è la serata della tarantella, boh, parliamo, facciamo. Capito? Feste tipiche, non fezze, feste. Fezze è una... La fezza la fa tarlo, va bene. Però... Ok, sì. Io, sì, io prendo questa tradizione feste e mi piace tradizione polacca feste, ballate. Grande, sì. Sì. Krakowiak, la danza tipica polacca. In mia città, Krakowiak, queste donne metti vestitine molto colorate. No, no, sexy. Molto colorate, locale, sì, simile di mia nonna, tu lo sai. Colorate, sì, sì. E ballo. E questo è carino, ma io non poi ballo questo questo Krakowiak. Perché... Io penso questo è difficile, molto. Ma ok, quando io torno a Polonia, io... ok, Casanova, ok. Non c'è problema. Va bene, dai. Mandiamo il prossimo pezzo dopo... Mandiamo un pezzo di Santana, giusto, per dedicato al Casanova, nostrano, Giovanni. Mandiamo Just Feel Better. It's not Siamo ritornati qui, siamo in chiusura di trasmissione. Volevo salutare Barbara dalla Polonia e gli prometto che un giorno andrò in Polonia a trovarla. Un giorno che non penso che non sia domani, però non troppo lontano, dai, verrò un giorno. Quando? Poi vediamo. Non lo so, siamo arrivati al punto dove il nostro inviato da Roma vuole la parola. Sì, semplicemente per fare saluti. Saluti a tutti quanti quelli che ci seguono da Roma. Non faccio i nomi perché saranno tantissimi, però comunque ci sentono e quindi salutiamo gli amici romani. Salutiamo tutti gli amici di Roma, da Ertarlo, il grandissimo inviato di Roma. Non lo so, Isabella, vuoi salutare i nostri ascoltatori? Sì, io voglio salutare tutti 2000 persone che senti noi, ascolta noi, sì, anche mafiosi, tutti mafiosi, sì, e anche Castanovi italiani, e chi? E tutti, scusi per mia lingua perché no, buona. Sì, grazie ragazzo Francesco perché lui sì, e anche i miei cani. Salutiamo Buster, sì, grazie Francesco perché lui invita me in questo radio e qui è buonissima atmosfera, okay, grazie. Grazie a te Isabel, vabbè, ringraziamo naturalmente tutti i polacchi, Casanova, mafiosi, tutti salutiamo anche gli amici da Reggio che ci ascoltano, Mattia. E niente, magari vi lascio con un ricordino, Peppe, dell'esercito americano, praticamente nanotecnologia militare, l'incredibile zanzara drone. Che è fatta zanzara, Peppe? È una zanzara dotata di telecamera, microfono e siringa. Cioè, e con la siringa praticamente va a pungere l'essere umano, cioè una puntura normale, una solita puntura, però che va a modificare il proprio DNA. Sarà un'arma eccezionale. Io vi lascio la buonanotte, un saluto collettivo dal cuore della banda no, clandestino Cid sotto le stelle stasera in esclusiva per voi. Alla prossima, salve. La prossima puntata sarà lunedì prossimo, non so, speriamo, casomai vi facciamo sapere. Mandiamo un pezzo dei Turtles, Happy Together. Chiudiamo con questo, ciao. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together.